falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Non solo calcio ha il falco e il gabbiano quando si parla di sport. Noi siamo alla ricerca di grandi storie, di grandi imprese, di colpi d'ala e di umanità. E oggi raccontiamo la storia di un giovane pilota di Formula 1 che aveva una gran voglia di dimostrare al mondo intero di essere veloce, di poter raggiungere traguardi ambiziosi. Un ragazzo al quale la fortuna ha giocato un brutto scherzo aspettandolo in una calda mattina di giugno. Oggi raccontiamo la storia di Riccardo Paletti. Immaginate la scena, partenza di un Gran Premio di Formula 1, anni 70, anzi per la precisione 1974, Olanda, Zandvoort. La prima fila occupata da due Ferrari rosse, Niki Lauda, Clay Regazzoni. Bene, sugli spalti c'è un ragazzino di 16 anni, ha i capelli un po' lunghi come si usa in quegli anni, un paio di occhiali con due spesse lenti da vista. Insomma, un aspetto un po' da nerd diremmo oggi, un aspetto da primo della classe. Invece questo ragazzo è un grande appassionato di motori, è un vero sportivo, si chiama Riccardo Paletti. Campione juniores di karate, è anche bravo con gli sci, partecipa alle gare, le vince. Insomma, c'è una cosa di cui lui non ha paura, è la velocità. È un ragazzo di Milano, è il ricco rampollo di una famiglia benestante. La madre, Gianna, è proprietaria di una storica gioielleria del centro. Il padre, Arietto Paletti, è un immobiliarista ed è anche un importatore di una marca di prodotti hi-fi molto importante, soprattutto in quegli anni, la Pioneer. Difatti, questo sarà il primo sponsor quando Riccardo a 19 anni deciderà di mettersi alla guida di un'auto da corsa per inseguire un sogno, diventare un pilota di Formula 1. Beh, era figlio di genitori separati, quindi era da quel punto di vista un ragazzo che era viziato da entrambi i genitori, ma questo credo che faccia parte un pochettino del destino di tutti i figli che provengono da una famiglia nella quale ci sono stati dei problemi tra padre e madre. Questa era la voce di Guido Schittone, che è un giornalista, un grande appassionato di motori, un grande amico di Riccardo, insomma che è stato un grande amico di Riccardo, che oggi ci accompagna in questo viaggio per aiutarci a raccontare la vita di questo giovane pilota, una vita particolare, lontano dai riflettori. E lui inizia a correre tardi perché non è uno di quelli che si fanno le ossa nei kart, che a 6-7 anni è già un campioncino, che poi arriva a correre a 18 anni con migliaia di chilometri alle spalle. Lui inizia subito con le auto potenti, quelle della Formula Ford, grazie soprattutto ai finanziamenti della sua famiglia, in particolare del padre. Io mi trovavo a Varano de' Melegari in una delle tante giornate di test, di prove che gli studenti andavano a vedere, e mi ero ritrovato in mezzo a tutti i volti dei piloti che conoscevo, che avevano dei volti particolari, avevano delle luci negli occhi da pilota. Mi ero ritrovato un perfetto studentello con gli occhiali dentro una macchina molto bella, che era uno Zella di Formula 2000, e sulle prime mi era stato antipatico, perché io sognavo di fare il pilota e dicevo: ma guarda questo pischello qui che è dentro una bellissima macchina, che non si sa chi sia, da dove spunta, che cosa ha fatto, e lo vedevo girare, ho detto: beh, questo qui sarà subito preso nel mirino di Guido Schittone per dire che non vale niente. Eh sì, l'impressione che dà di sé Riccardo a chi non lo conosce è quella del classico figlio di papà che è lì soltanto perché ha i soldi, che si diverte a giocare a fare il pilota. E invece non è così, perché Riccardo Paletti ha un altissimo istinto competitivo, lo ha già dimostrato nelle gare di sci, nel karate, negli altri sport che ha provato, e ha dimostrato che ha un talento. E anche Guido Schittone alla prima occasione ufficiale deve ricredersi. A distanza di 2 settimane a Varano dei Melegari viene organizzata la prima corsa di quel campionato, che era il campionato italiano di Formula Super Ford, e Riccardo Paletti ottiene la pole position e resta in davanti al gruppo per moltissimi giri. E allora io ho riveduto subito, ho corretto immediatamente la rotta, e da pilota antipatico mi è stato subito simpatico, ho detto no Capperi, questo qui va veramente forte. Beh, un giornalista che cambia idea e che ammette di essere stato prevenuto è merce rara. Lui scrive sulla Gazzetta di Parma, elogia questo nuovo talento, e dopo 2 settimane riceve una cartolina da Milano scritta da Paletti che lo ringrazia per le belle parole. Bene, da quel momento i due intrecciano un'amicizia molto forte, perché sono coetanei ed entrambi si sono da poco affacciati al mondo dell'automobilismo. Ci si sentiva, ci si vedeva negli autodromi, abbiamo avuto anche un'esperienza comune al Gran Premio di Monte Carlo di Formula 3 del 1980, quando il papà Rietto Paletti venne a prendermi, andammo con lui a Monte Carlo, poi ritornai con Riccardo in camper a Milano, che era arrabbiatissimo perché si era dovuto ritirare dopo pochissimi giri dalla corsa. 1978 Formula Super Four, 79 Formula 3, 80-81 Formula 2, che è la serie B dell'automobilismo. Fino adesso Riccardo Paletti non ha che abbia ottenuto dei grossi risultati, però non importa molto, perché nelle serie minori importa che si riesca a portare a termine la gara. Tutti sono pronti a chiudere un occhio sui risultati, soprattutto se alle spalle hai uno sponsor forte che ti sostiene e che ti finanzia. Il falco del Gabbiano. C'è un ingegnere e costruttore che si chiama Mike Earle, e con un socio ha creato la Onyx, che è una scuderia che si sta preparando al debutto in Formula 1. Però siamo ancora alla fase di collaudo, e quindi intanto partecipa al campionato di Formula 2 e chiama a guidare la macchina Riccardo Paletti, il protagonista della nostra puntata di oggi. Riccardo deve sostituire Johnny Cecotto, che è andato alla Minardi appunto in Formula 1. Il campionato europeo di Formula 2 che aveva fatto nel 1981 era un campionato importante, era un campionato dove c'erano tutti i migliori piloti al mondo, che poi sarebbero diventati famosi e vincenti in Formula 1, stessa cosa in Formula 3. E così Riccardo si trova a correre accanto a Prost, a Ghinzani, a Alboreto, a tanti campioni che magari facevano 1 o 2 anni a sportellate in queste serie minori, per poi trovarsi finalmente in Formula 1, la Serie A. E anche Riccardo vuole seguire la stessa strada, perché è ambizioso, vuole bruciare le tappe, e si mette in mostra salendo un paio di volte sul podio proprio a Monza davanti al suo pubblico nel campionato di Formula 2 dell'80, e questi piazzamenti gli valgono la riconferma anche per l'anno successivo. E Paletti è contento, perché sa che in questo modo può macinare chilometri e fare quell'esperienza che gli manca dal momento che ha iniziato a correre piuttosto tardi. Era un pilota che aveva del talento che bisognava in un qualche modo sgrezzare. Forse è arrivato in Formula 1 troppo presto, con poche corse alle spalle, questo è un dato oggettivo. E così nell'82 arriva la Formula 1, è l'anno del colpo d'ala in un senso o nell'altro, è la scelta che ti cambia la vita, perché Riccardo deve decidere se rimanere ancora un anno in Formula 2 a fare esperienza, oppure accettare la proposta di Vincenzo Osella e esordire in Formula 1. E in questa scelta è fondamentale la spinta del padre Arietto, che gli garantisce un finanziamento da $1 milione, che nell'82 non è poca cosa. E lo convince a accelerare i tempi e passare alla regina dell'automobilismo. Sentiamo Guido Schittone cosa ne pensa. chiaramente quando Riccardo Paletti ha debuttato in Formula 1 ha iniziato con una vettura che non era assolutamente competitiva, che probabilmente era l'ultimo tra le ultime della griglia, era una macchina che non aveva alcun tipo di potenziale, ed essendo lui alle primissime armi e senza un bagaglio di esperienza importante alle spalle, è logico che Riccardo faticasse anche nel trovare il giusto setup della vettura. Sì, me li ricordo quei tempi in cui Osella era un po' un luogo comune, cioè alla fine tu leggevi la griglia di partenza e o tra i non qualificati o tra gli ultimi a qualificarsi erano sempre questa volonterosa casa automobilistica che però aveva dei budget risibili rispetto ai budget della Lotus, della Ferrari, della McLaren, eccetera. Non è una macchina competitiva, è un campionato molto diverso da quello attuale, con molte più auto, però molte meno probabilità di ottenere tempi utili alla qualificazione, e in più solo i primi sei prendevano i punti per la classifica mondiale, 9-6-4-3-2-1, me lo ricordo, quindi è impossibile per Paletti riuscire a fare risultato, bastava fare dei chilometri, acquisire esperienza per cercare di passare a qualche altro team. In fondo a Riccardo il mondo della Formula 1 piacerebbe anche se dovesse accontentarsi di fare il collaudatore anziché scendere in pista e rischiare la propria vita in gara. Due parole anche a Riccardo Paletti, ecco, com'è stata questa tua prima esperienza, sia pure non ancora di corsa? Ma io credo che nel complesso sia tutto positivo, anche se ho avuto quell'inconveniente un paio di giorni fa dell'uscita in strada, ma nel complesso è andato tutto bene. Purtroppo se io e Osella pensavamo di poterci qualificare bene con tutte le macchine, il calo di motore non ci voleva, se no penso che avrei potuto fare la mia bella figura anch'io. E nel Gran Premio d'esordio in Sudafrica Riccardo non riesce a qualificarsi per problemi al motore. Peraltro l'82 è un anno strano per la Formula 1 perché ci sono due federazioni, la FISA e la FOCA, due presidenti, Eccleston da una parte, Balestre dall'altra. Si fanno la guerra sui regolamenti, è il potentato della Formula 1, è uno scontro tra due uomini che vogliono dimostrare il loro ascendente, la loro potenza, e tutto il circo della Formula 1 ne soffre. Così si arriva al Gran Premio di San Marino dell'82. I team aderenti alla FOCA di Eccleston sono praticamente obbligati a non partecipare alla gara, c'è una scissione tipo le Olimpiadi quando non vanno gli americani e non vanno i russi, no? In quell'occasione ci sono solo 14 macchine e quindi finalmente la Osella di Paletti riesce a conquistare la qualificazione, scende in pista naturalmente dall'ultima fila, e il sogno di gareggiare con i migliori però dura solo 7 giri perché poi la sua Osella si rompe per l'ennesima volta. Di sicuro con l'Osella non si potevano fare degli sfracelli, quindi non era un problema di prestazioni, era sicuramente un problema di vettura. Il pilota senza una buona macchina ieri come oggi non va da nessuna parte. Poi c'è il Gran Premio di San Marino, un altro episodio che avrà delle ripercussioni drammatiche due settimane dopo al Gran Premio del Belgio, perché Pironi e Villeneuve, piloti della Ferrari, si contendono in quella gara il primo posto. Per un fraintendimento tra il box e i piloti, Pironi beffa il compagno di squadra prima del traguardo, vince, scoppia la tensione in casa Ferrari. Villeneuve, con la sua guida irruenta che l'ha fatto diventare l'idolo dei tifosi ferraristi, si presenta alle qualifiche del Gran Premio del Belgio con la voglia di rifarsi delle polemiche, però il destino ha scritto per lui un tragico epilogo, perché Villeneuve urta Jochen Mass, vola con la sua auto, si ribalta più volte, il corpo del pilota viene scagliato al di fuori dell'abitacolo, viene sbattuto contro le recinzioni. Villeneuve muore così a 32 anni, risvegliando i forti dubbi sulla sicurezza della Formula 1. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando la vita di Riccardo Paletti, un giovane pilota di Formula 1 che a bordo di una Osella, quindi di una macchina assolutamente non competitiva, lotta ogni Gran Premio della stagione 82 per conquistare la qualificazione e gareggiare. Riccardo Paletti, giovane rampollo dell'alta borghesia milanese, appoggiato dai genitori, che insegue il suo sogno di diventare un grande pilota di Formula 1, sogno che purtroppo non lo porterà così lontano come lui sperava. Finora ci è riuscito solo una volta al Gran Premio di San Marino a qualificarsi, però la sua corsa è finita dopo solo 7 giri. Il 13 giugno si presenta sulla griglia di partenza a Montreal, Gran Premio del Canada. È riuscito a strappare l'ultimo posto disponibile in griglia, è contento anche se parte dall'ultima fila, però finalmente ha una nuova occasione per dimostrare il suo valore. La Formula 1 sta vivendo un momento difficile. Villeneuve è appena morto, a Zolder l'8 maggio. Il dibattito sulla sicurezza delle monoposto è molto acceso. Paletti è un pilota sconosciuto. Sulla morte di Villeneuve ha espresso al suo amico Guido Schittone il suo pensiero personale: se fosse capitato a me, avrebbero scritto solo un trafiletto. È una brutta regola, è una brutta norma della vita, però è così. Ed è vero, di Riccardo Paletti ci ricordiamo noi, e si ricorda pochissimo la gente. Di Villeneuve si ricordano tutti, ma anche questo fa parte del gioco, non c'è nessuna cosa nuova. Ci sono dei piloti o ci sono dei personaggi sotto la luce dei riflettori, e ci sono degli altri che in quel particolare momento storico sono comunque dei comprimari. Ma Riccardo Paletti non sta certo pensando a questo tipo di epilogo. È spinto da una grande sete di rivincita, finalmente è sulla griglia di partenza alla domenica, non deve finire la sua corsa al sabato alle prove. Ha una rabbia sana che alimenta il suo spirito di competizione, è concentrato. Partire dall'ultima fila non è facile, lui vuole dimostrare il suo valore. Si prepara a accendere il semaforo rosso, entro pochi secondi il via. Salgono i motori, verde, parte veloce Prost, si infila, la Ferrari non riesce a partire, la Ferrari non è partita ed è stata anche urtata da, ci sembra, da Paletti, che a me sono fuori cinque macchine sono fuori, c'è la 33 di Lis, c'è la Ferrari di Pironi, c'è, mi pare, Paletti. Si tratta, sì, proprio di Riccardo Paletti con la Osella. Il motore della Ferrari di Didier Pironi, che si trova in prima fila, si spegne. Il pilota si sbraccia per segnalare la cosa ai commissari, che non arrestano la procedura di partenza. È un errore che sarà fatale. Le auto partono a una, sfilano lungo la linea del traguardo, evitando la Ferrari del francese. Però Paletti parte dall'ultima fila, quando arriva alla linea del traguardo è già a 180 km all'ora, coperto dagli altri piloti, non riesce a evitare la Ferrari di Pironi. L'impatto è tremendo, in sala stampa si leva un urlo. Paletti rimane incastrato tra le lamiere della sua monoposto, ha subito delle gravi ferite, ma i commissari non riescono nemmeno a estrarre il corpo dalla macchina. Si sta portando soccorso mentre c'è uno sviluppo di incendio. Drammatica questa partenza, uno sviluppo di incendio. Accorrono quei sistemi di estinzione, non, Paletti evidentemente svenuto, non è riuscito a azionare il sistema di estinzione automatico, la lotta con il fuoco. Accorrono altri mezzi antincendio, ancora il fuoco non è stato dominato. Drammatica questa partenza, non si riesce a capire come nella zona del traguardo, dove i mezzi sono sovrabbondanti, non si sia riusciti ancora a spegnere l'incendio, anche se le macchine sono partite col pieno di benzina. Sono degli attimi di confusione drammatici. L'auto di Paletti sta bruciando, con il pilota ancora seduto al suo posto, e Poltronieri lo sa e commenta con la voce che trema questa vicenda. I commissari sono impreparati a gestire la situazione. Pensate che Pironi esce dalla macchina, strappa dalle mani di un addetto della pista l'estintore e lo dirige verso la macchina per spegnere l'incendio. Sono secondi che non passano più, alla fine il fuoco si spegne e ci vorranno più di 20 minuti prima che il corpo venga caricato sull'elicottero che trasporterà Paletti in fin di vita all'ospedale di Montreal. e morirà in ospedale Riccardo. Morirà per le gravi ferite riportate, ma soprattutto per avere inalato la schiuma degli estintori erroneamente puntati contro di lui anziché contro i serbatoi della monoposto. Da non credere. Il giorno dopo, a mente fredda, se così si può dire, si analizzano le cause dell'incidente che è costato la vita a Riccardo Paletti e molti sostengono che ci sia stata una responsabilità gravissima da parte degli organizzatori del Gran Premio, dal momento che i commissari di pista, che avrebbero dovuto agire prontamente e spegnere in fretta e soprattutto nel modo corretto l'incendio, non si sono dimostrati all'altezza. D'altronde a quei tempi i commissari vengono reclutati solo per la gara, localmente, non è che facciano corsi di preparazione, e sono gli stessi commissari peraltro che non si sono accorti che Pironi segnalava con le braccia il motore spento, che non hanno interrotto le procedure di partenza, perché mano a mano che gli altri piloti sfilavano Pironi arrivavano a una velocità sempre superiore, quindi era sempre più difficile evitare l'impatto, fino a Paletti che arriva per ultimo a 180 km/h. Tra i commentatori della prima ora c'è anche un giovane Arturo Merzario che dà il punto di vista dei piloti. Diciamo che il pronti via è uno dei momenti più difficili di una corsa automobilistica, e le conseguenze di un'errata manovra o di un guasto meccanico di qualche altro concorrente che è davanti a un pilota, non riesce a partire, può creare il danno, il guaio e delle volte anche catastrofico, come nel caso di Paletti. C'è chi ha detto che Riccardo ha bruciato le tappe, prima della corsa di Montreal aveva gareggiato una sola volta per pochi giri, che ha pagato l'inesperienza, però obiettivamente la sicurezza delle monoposto in quegli anni era veramente carente. Pochi giorni prima era morto Villeneuve, che non era certo un novellino, e i rischi non cadevano solo sui piloti. Se andiamo a vedere le cronache dei Gran Premi degli anni 70 e 80, ci sono incidenti che coinvolgono anche meccanici, commissari, addirittura spettatori. Insomma, le monoposto sovralimentate erano delle bombe vaganti con una potenza difficile da controllare e da arginare. Bisogna sempre tenere presente una cosa, che la sicurezza è figlia del tempo in cui viviamo, per cui a distanza di 20 anni le vetture di Formula 1 che vedremo, quelle di adesso, a confronto saranno delle vetture pericolose. Per quell'epoca le Formula 1 rappresentavano già un buon mix di sicurezza, anche se sappiamo non era vero. Basta ricordare che nel 2014 Jules Bianchi a Suzuka ha perso la vita proprio per un incidente. Non c'è il fuoco, l'auto non si ribalta, però si schianta contro una ruspa del soccorso impegnata a spostare un'altra vettura. La vettura di Bianchi rimane intatta, però il pilota sbatte la testa contro il mezzo di soccorso. Quindi ci sono responsabilità degli organizzatori, però la fatalità rimane, ahimè, una variante imprevedibile. Questo ci fa capire che in uno sport come la Formula 1, purtroppo il destino e a volte anche la morte è sempre in agguato. È sempre difficile per un padre parlare di un figlio che non c'è più, e anche per chi chiede approcciarsi. Noi abbiamo al telefono Arietto Paletti, che è il padre di Riccardo, di cui stiamo raccontando la storia. Buongiorno, buongiorno signor Paletti. Buongiorno Ruggeri, buongiorno. Che tipo era Riccardo da ragazzo? Ma riservato, signorile, buono, ecco, direi buono. E cosa pensava lei della sua passione per le corse? Perché in genere ci sono, come dire, due scuole di pensiero: c'è il genitore che si spaventa e che cerca di dissuadere il figlio, e quello che invece condivide la sua passione. Lei che tipo di genitore era? Tutte e due le cose: spaventato per le corse di Riccardo, i rischi, eccetera, eccetera. Siccome sono appassionato di automobilismo, sostenevo la passione di Riccardo, che poi era il suo sogno di correre, insomma, questa è la verità. Certo, lei non era in Canada quel giorno tremendo. No, c'era la mamma, purtroppo. Io purtroppo avevo l'impressione che andando mamma e papà al Gran Premio facciamo mio figlio di cocco di papà, di mamma. Bravo, sì. Lei ha detto la parola giusta. Allora c'è andata la mamma che purtroppo ha assistito. Certo. Il guaio. Ma lei a distanza di tempo ovviamente avrà pensato a questa cosa migliaia di volte. E lei pensa veramente che ci siano state delle responsabilità da parte dei commissari? No, ma certo. Guardi, lei tosto un tasto che se non me l'avesse detto lei l'avrei affrontato io. Scusi, Pirlì non parte, alza la mano e quella persona che dirigeva la corsa non ferma la corsa. Certo. Questo è successo anche a Monza, con Raikkonen che non è partito. Meno male che non è successo l'incidente. E questo è successo anche a Bianchi. Sì. È andato contro la gru, ma siccome è uno spettacolo, ormai la Formula 1 muove 1000 persone per ogni viaggio, è uno spettacolo, c'hanno gli orari, devono andare. E certo, quindi lei pensa che ci sia anche, come dire, un po' di, non dico cinismo, però di voglia di salvaguardare innanzitutto lo spettacolo. Parole sante, assolutamente. Però cosa vuole, non ci possiamo fare niente. Quelli che dirigono la Formula 1 sono 20 persone che hanno in mano un business da miliardi di dollari. Certo. Esatto. Ma lei pensa che è stato fatto qualcosa negli ultimi anni, al di là delle vie di fuga per le macchine? Insomma, certo, non vediamo più l'incidente tipo anni 60 del pilota che esce e dopo 5 metri trova un muretto. Però a livello di regolamenti e di norme per salvaguardare il pilota, come siamo messi oggi? Più che altro hanno fatto questa cellula di sopravvivenza che consente alle macchine di non ridursi a un cartoccio, insomma, a un certo momento. Poi l'incidente può sempre avvenire, però ha migliorato la sicurezza, lo ripeto per la terza volta, insomma. Questa è una cosa importante. Modifiche ai regolamenti non ne sono stati fatti sensibili, c'è solo questo fatto acclarato e sicuro, insomma. Signor Paletti, io la ringrazio enormemente, è stato molto carino, noi continuiamo a ricordare suo figlio. Guardi, le dico una cosa, questa è l'ultima intervista che faccio perché sono stanco e vecchio, e parlare di Riccardo mi emoziona, va bene? La ringrazio, le mandiamo tutti un abbraccio. Arrivederci. L'autodromo di Varano de Melegari vicino a Parma oggi porta il nome di Riccardo Paletti. È lo stesso circuito dove è nata l'amicizia con Guido Schittone, dove Paletti ha esordito nel mondo dei motori, in quel mondo che gli è stato fatale. È una storia triste sicuramente, è una storia di assenza, di mancanza, che ti dà questo senso di incompiuto. È chiaro che la domanda è anche chissà cosa sarebbe stata la vita e la carriera di Riccardo Paletti senza quel terribile incidente, e noi cerchiamo di fare quello che possiamo e dobbiamo, cioè ricordare un ragazzo che ha sfiorato l'incontro col grande destino e che ha dato un colpo d'ala che purtroppo è stato spezzato prima di partire. Riccardo Paletti, noi vi aspettiamo con altre storie. Se volete segnalare qualcosa su cui volete che io posi il mio microfono, fatelo, scrivetemi sui siti, sui social, insomma, se volete mi trovate e io vi aspetto. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti.